Ciao ragazzi, sono Silvio Martinello, sono qui all'arrivo della tappa, mi hanno fermato questi pazzi di Gironimo e devo lanciare il loro podcast, veramente lo faccio, che pesanti sti ragazzi, veramente, vabbè, lancio sto podcast, dai, Gironimo, vai, a te la linea. Amiche e amici del ciclismo, del Giro d'Italia, del Veneto, delle montagne, montagne boscose, montagne con orizzonti aperti, amici e amiche del Grappa, del Monte Grappa, della prima grappa, della seconda grappa, della terza grappa, della quarta grappa, della quinta grappa, della sesta grappa, di tutte le grappe che ci beviamo da questa sera, da domani sera ancora di più e per tutto il resto della stagione. In attesa del prossimo giro noi non faremo altro che bere grappe e a farlo con me, che sono Cauz e sono la voce che introduce questo che è Gironimo, il podcast di Al Vento con la alcolica collaborazione di Shimano sul Giro d'Italia 2024. Io sono Cauz, davanti a me c'è Michele Florindo Callisto, Guatemala, Rigoberto Norberto, Diego Armando Pelacci. Ma possiamo finalmente spiegare da cosa arriva Florindo Callisto? Se vogliamo dedicare a questo questa puntata, facciamolo. Ne parlerai anche 5 ore. Sono i miei nonni e al battesimo ho questo nome completo, insomma, vabbè. Bellissimo, nome bellissimo. Salutiamo tutta la famiglia Pelacci che tante cose fa e tanta vita vive insieme a questo ragazzo così esuberante che è sempre di fianco a noi. Di fronte a me, proprio qui nella seconda A della scuola secondaria di grado Jacopo Vittorelli di Bassano del Grappa, c'è Leonardo Piccione. Eccomi qua, buonasera a tutti, spero stiate bene, io sì molto, è stata una bella giornata. Scusami, è di primo grado la scuola, non è di grado perché è di Bassano del Grappa, sempre Veneto, ma... È stata una bella giornata. È stata una bella giornata. Non credo che grado sia in Veneto, in realtà. Ho questo dubbio, ma lo andiamo a verificare nel corso della puntata. Potrebbe essere in Friuli. Sì, mi sa proprio che è in Friuli. Ma noi tanto ormai abbiamo perso la cognizione del tempo, figuriamoci della geografia. È stata una bella giornata sul Grappa, giù dal Grappa, negli incontri che abbiamo fatto, in quello che abbiamo visto in corsa, con tanti vincitori e pochi vinti alla fine. È stata una giornata, dicevo prima Michele, non c'è stato dramma, no? Non c'è stato nessun crollo, nessun evento. Scusami, se è dramma è anche trollo. Sì. Se vogliamo, l'evento più, dal punto di vista della classifica, più importante che è avvenuto è stata la top 10 persa da Filippo Zana, che dal nono è sceso all'undicesimo posto, del paese, tra l'altro, in casa. Giornata no, sì, l'evento di punta invece è stato forse adesso questo nostro ultimo passaggio dal buffet, così per un saluto, e ci hanno dato tutte le bottiglie aperte che restavano. Questo non sappiamo quanto influirà nella nostra puntata, ma ne parleremo. Diciamo che è successo quello che ci aspettavamo succedesse, ma è successo in una forma piacevole da vedere ed emozionante per certi versi. Ma non indugiamo. Luca Pedalini potrebbe scriverci una canzone su questa giornata positiva. Sì, credo. Intanto ce ne sono 7 disponibili sul suo canale. Sono sette. Delle tappe vinte da Pogacar. Una in più, è vero. Una Pedalini in più. 7, Pogacar 6. Al tie break vince Luca Pedalini. Ma passiamo alle cose che ci interessano di più, spero almeno, perché anche oggi, per il penultimo giorno in questa edizione di Gironimo, c'è l'acrostico. Oggi, Michele, c'era una doppia S e una doppia P da risolvere e ho provato a farlo in questo modo. Vedo che hai già il microfono pronto a commentare quello che sto per dire. Sentiamo cosa hai cucinato. Allora, bellissima atmosfera sulla salita. Attendono numerosi oggi di elogiare la gioventù resa arte. Pogacar, Pellizzari, Ale. Fantastico, è una chiusura anche di un tuo tweet, no? Questo Ale. Sì, sì, questa esultanza, diciamo così. Non faccio una cosa che di solito non ho fatto, lo spiego un attimo di più, non che ci fosse bisogno, però ecco, ho voluto menzionare Pogacar e Pellizzari, perché la doppia P di questo acrostico di oggi, perché sono due, o forse i due grandi personaggi di questo giro, in forme diverse, in modi diversi. Un grande giro è, se vogliamo, un romanzo di formazione, no? Questi giovani esseri umani alle prese con il loro talento, ma anche con i loro, come si chiamano in inglese, growing pains, i dolori della crescita. Abbiamo visto Pogacar all'inizio di farsi più uomo, con più spigoli anche nel carattere, con dei momenti no. Però poi i primi baffetti, i primi peli sotto le ascelle esatto. E anche altrove, questi non li abbiamo visti. Questi non li abbiamo visti, però poi l'abbiamo visto tornare, essere quello che ama più di tutto andare in bicicletta, è la cosa che gli piace di più fare e lo dimostra. E quello che sta intorno magari gli interessa meno, abbiamo detto è un artista, gli interessa parlare attraverso la sua arte, quindi la sua gioventù e la sua esuberanza diventa arte, il suo palcoscenico sono i luoghi come oggi, il Grappa si è esaltato, abbiamo visto. Con Pellizzari questa forma di arte è più elementare, ancora grezza e ancora informe, però più pura se vogliamo allo stesso tempo, proprio perché non ancora del tutto formata. Questo coraggio di oggi, no? Di buttarsi letteralmente sotto un treno, nello specifico il treno della UAE che da dietro tirava e lo è andato a riprendere, però ci è andato lo stesso, senza retropensieri, sovrastrutture, tutte cose che poi crescendo no, acquisiamo e sono necessarie a volte nella vita, però ci mancano col passare del tempo. Invece, attraverso gli sportivi, gli atleti come Pellizzari, questo ragazzo di 20 anni, riusciamo a rivivere e qualche volta ci commuovono anche, come ha fatto in questo giro più di una volta questo ragazzo del 2003. Va bene, hai già lasciato la tappa, io a questo punto non salgo più, andiamo al prossimo segmento. No, deliziaci anche oggi per la penultima volta con le sillabe d'amore che ci raccontano poi i fatti diciamo più tecnici. Questo era un po' un anticipo di conclusione, se vogliamo, emotiva di questo giro. Tu facci un po' la sintesi di quello che abbiamo visto sulle strade oggi, prego. Dopo la partenza piovosa da Alpago, un gruppo di fuggitivi va espandendosi verso il primo attacco del Monte Grappa. Una dozzina di corridori in tutto, tra cui Pelaio, Tonelli, Germani, Conci e Vendrame. Sul primo Grappa, Pellizzari attacca dal gruppo e va addirittura a vincere il GPM. Riesce a resistergli solo Pelaio. Sulla coppia di testa rientra in seguito un altro VF Group Bardiani, ovvero Alessandro Tonelli. In gruppo, intanto, cedono il passo Zana e Fortunato. Pogacar mette davanti Novak e Maika e il vantaggio di Giulio Pellizzari, rimasto solo in testa, cala continuamente. Un primo forcing di Maika crea una frattura nel gruppo degli uomini di classifica. Geraint Thomas e Ben O'Connor rimangono dietro. Pogacar infine scatta e fa subito il vuoto. Vince il GPM del secondo Grappa. Pellizzari tiene duro e transita subito prima di un gruppetto con Tiberi, Dani Martinez e Rubio. Valentin Parepentre riesce a limitare il distacco del gruppetto Ben O'Connor, con G, Storer e Hirt. Al secondo passaggio sul dentello del Pianaro, Dani Martinez attacca, ma Rubio e Tiberi rientrano in discesa. Anche quelli dietro, cioè il gruppetto di G, O'Connor e Pellizzari, rientrano. Sono quindi in sette all'inseguimento della Maglia Rosa, che arriva con circa 2 minuti di vantaggio, di nuovo da sola. Proprio così, lo conferma l'ordine d'arrivo, ha vinto Tadej Pogacar con 2:07 su Valentin Paré-Pentre, che ha regolato il gruppetto dei primi inseguitori della Maglia Rosa, che comprendeva, oltre allo stesso Paré-Pentre, Dani Martinez terzo, Tiberi quarto, Einer Rubio quinto, Giulio Pellizzari, che era in fuga, è stato raggiunto e ha resistito nel gruppetto dei migliori, sesto, settimo Geraint Thomas, ottavo Ben O'Connor. Staccato di 2:31 da Pogacar, quindi di 24 secondi da questo gruppetto, Michael Storer, e decimo Rafał Majka a 3:08. Arensman e Hirt oggi sono arrivati in questo stesso gruppo con Majka, quindi hanno perso anche loro 3:08 da Pogacar. Bardet ne ha persi 7:37. E Lorenzo Fortunato insieme a Filippo Zana hanno perso 9:54 oggi da Tadej Pogacar. Per effetto di tutto questo, la classifica generale è cambiata di poco, ma qualcosina, come anticipavamo in apertura, è cambiata. Forse ieri siete andati a un cineforum e il presentatore, anche se il film non parlava di ciclismo, vi ha detto che la maglia rosa è Tadej Pogacar. Sì, vero. È vero. Confesso, sono andato ieri a Lano del Piano, dove che eravamo a Pieve di Cadore al Cineforum, e ha detto questa cosa, sì. E la maglia rosa di questo Giro d'Italia, con 9:56 per 4 secondi, non è arrivato alla soglia dei 10 minuti di vantaggio sul secondo. Per ora, è vero, c'è ancora una tappa, tutto sommato. Daniel Felipe Martinez della Bora. Terzo è il birthday boy, il festeggiato di oggi, compie 38 anni, Geraint Thomas, e festeggia con un podio al Giro d'Italia, 10 minuti e 24 di ritardo da Pogačar. Quarto, Ben O'Connor, 12:07. Quinto, Tiberi, 12:49. A seguire, non vi dico il distacco, anche perché siamo vicini al quarto d'ora o oltre il quarto d'ora, Thymen Arensman, sempre della Ineos, compagno di Thomas. Settimo, guadagna una posizione Einer Rubio. Ottavo, ne guadagna due Jan Hirt. Nono, ne perde invece due Romain Bardet, che però conserva il suo posto nella top 10. E chiude la top 10, forse la sorpresa di questa giornata, l'evento che più di tutti ha cambiato la classifica generale, che è l'entrata in top 10 di Michael Storer, altrimenti detto The Destroyer, della Tudor, che chiude la top 10 scalzando il buon Filippo Zana della Jaico. Sì, sì, sì, domani prime pagine dei giornali saranno quasi tutte su Michael Storer, che ha conquistato un posto nei primi 10 al Giro d'Italia. Oppure su Simon Geschke, che è arrivato 14esimo, miglior risultato in carriera. Oppure su Domenico Pozzovivo, che è arrivato 20esimo, e ho letto una statistica incredibile, è la sua 12esima volta tra i primi 20 al Giro d'Italia ed è la 15esima volta in un grande giro. Tutte le volte che ha finito un grande giro, tranne una, Pozzovivo è sempre arrivato tra i primi 20. Solo una volta nel 2016 al Tour è uscito dai primi 20 della classifica generale. Eccezionale. Imperatore del piazzamento dell'ultimo ventennio. Non so se ce ne sono tanti altri di corridori. Sarebbe che possono, interessante fare un che possono vantare di numeri di questo tipo. Forse un domani li potrà vantare Tadej Pogačar se va avanti così, con anche piazzamenti leggermente più alti. Ma che ne sappiamo noi del domani? Per interrogare il futuro, o per interrogare il passato, o per interrogare anche il presente, noi ci affidiamo solo a una scienza esatta, che è la giromanzia. Star man waiting in the sky, he'd like to come and meet us, but he thinks it'd blow our minds. There's a star man waiting in the sky. Amici della giromanzia, c'è uno starman waiting nel senso che aspetta che arrivino tutti gli altri a oltre 9 minuti di distanza. Benvenuti sotto la tenda della vostra giromante, che oggi veramente non ha forse più parole. Lady Gaga avrebbe detto Star is Born, ma questo lo sapevamo già. David Bowie, come avete sentito, diceva molte altre cose e l'arcano che non possiamo fare meno di pescare oggi, cioè in pratica Tadej ce l'ha proprio tirato, è quello della stella. E certo, perché la stella vuol dire amore, è amore, devo dire, proprio per il ciclismo e per i suoi fan, elevazione, quindi veramente il raggiungimento della massima vetta, serenità, perché alla fine è con questa serenità che oggi Tadej ha parlato ai giornalisti, ai suoi fan, al suo pubblico. Veramente la reazione tipica di tutti era questo: quanto cavolo ama il ciclismo. E vorrei dirvi due parole su questa carta, perché rappresenta una serie complicatissima di significati simbolici e soprattutto sullo sfondo un uccellino su un albero, Derek G. Alert, che con il suo canto rappresenta la maestria nella comunicazione. E anche qui direi che c'è stata una grande evoluzione nel Tadej mediatico, che ha ripreso veramente l'equilibrio che tutti conoscevamo. Abbiamo anche una sorta di configurazione di un sistema solare di cui la stella più grande è al centro, perché in mezzo a queste altre stelle ce n'è una più grande, e questa carta richiama l'archetipo della generosità e dell'amore disinteressato. E una generosità per il ciclismo, per l'arte del ciclismo in sé e per i suoi fan. Questa carta significa anche l'accettazione dell'affetto con tenerezza e umanità. È un'accettazione sincera delle regole della vita, con le sue ingiustizie, ma anche le sue belle sorprese. E quindi una sorta di maturazione che porta il consultante, ma in questo caso Tadej, a capire cosa conta davvero, con grande maturità, ad imparare che cosa è essenziale. Io credo che davvero abbiamo avuto modo di assistere a una sua evoluzione e a una sua crescita. Una piccola nota, perché ovviamente il rovescio della carta, in questo caso, parla della stanchezza. E anche qui la giromanzia non sbaglia un colpo, signori, perché che cosa c'è se non una enorme stanchezza negli altri 9 della top 10 grandi uomini della GC? Penso che abbiano assolutamente accettato da subito la netta superiorità di Taddei e capito che accettando questa è il primo step per andare avanti e continuare il loro percorso. Ciao amici della giromanzia! Dunque, io non so se questa stanchezza avvolge gli altri 9 della classifica generale, avvolge anche Pogacar, sicuramente so che avvolge noi che siamo qui con delle facce abbastanza tirate a commentare quest'ultima o penultima, non si è ancora capito, tappa del Giro d'Italia 2024. Dobbiamo farlo anche un po' di corsa perché abbiamo gli orari stretti questa sera. Di Taddei Pogacar avremo tanto di cui parlare quest'oggi, velocemente, ma credo che... Ho l'impressione che lo risentiamo, questo corridore. Questo nome mi sa che... Questo nome, sì, magari strada, non lui, forse strada. Il fratello, non so se ha fratelli Pogacar, non ho mai verificato. Sì, credo sì, che un fratello l'ha. Fratello maggiore, Tilen, credo si chiami. Per cui forse il fratello Tilen così si farà la sua carriera nel ciclismo. Anche di altri nomi sentiremo parlare molto probabilmente dopo questo Giro d'Italia. Uno sicuramente è Giulio Pellizzari, l'abbiamo detto, protagonista di giornata. Anche di lui abbiamo qualcos'altro da aggiungere a questo suo magnifico Giro d'Italia? No, io ho già detto prima, insomma, l'emozione che davvero ha suscitato in me questo suo giro. Oggi in particolare una parabola perfetta, stava per ritirarsi, no? L'abbiamo detto già altre volte, è rimasto, ha trovato la forma giusta. Oggi di nuovo protagonista. L'abbiamo incontrato, l'avete incontrato, perché io ero alle prese con Michael Storer, ma vi dirò tra poco di Storer. Voi eravate lì, lui è arrivato, si è seduto per terra, che è successo? Che è stato assediato dai microfoni, dai registratori, dalle persone, dai cellulari anche, dalle persone che volevano fargli delle domande al di qua delle transenne, per cui chi lo faceva in maniera più o meno lavorativa, e al di là delle transenne dai tifosi, perché Pellizzari si è guadagnato una quantità di tifosi in questo Giro d'Italia. E questa cosa io credo che gli abbia fatto un enorme piacere, tanto che si è seduto a terra esausto, ma non ha neanche aspettato più di tanto, ha voluto subito, insomma, lasciarsi andare, condividere con chi lo circondava le sue impressioni. Vi facciamo sentire un paio di minuti di risposte di Giulio Pellizzari al traguardo della tappa odierna. Sentirete le mie domande, sentirete anche altre voci, nello specifico due, che sono quelle di due amici che ci hanno accompagnato per tutto questo Giro d'Italia, abbiamo appena salutato, che sono Ciro Scognamiglio e Filippo Lorenzon. Sì, diciamo che oggi sapevamo che avrebbe voluto fare la gara, quindi non sono andato in fuga, sono stato tranquillo in gruppo. Sul primo GPM volevo assolutamente prenderlo perché volevo domani indossare la maglia a Roma, anche se non è mia, quindi... Ci ho provato, non pensavo di aver guadagnato così tanto, poi sull'ultima salita ho dato tutto. Ma diciamo che è stata un'emozione tutto il grappa, qua ho tanti amici, mio papà è di qua, quindi è stata un'emozione assurda, mi ha dato una spinta in più come se avessi avuto tre gambe. Lo sentivi il tuo nome urlare? Sì, infatti è quello un po' che mi faceva più effetto, pensare che la gente urli il mio nome. Ero venuto nel 2014 o 15 credo sul grappa a vedere Quintana che vinceva la cronoscalata, e oggi essere lì per me è stata un'emozione. Giulio, ti senti un corridore diverso rispetto a 3 settimane fa? Sinceramente no, sono lo stesso di 3 settimane fa, di un anno fa e 2 anni fa. Che ti ha detto quando ti ha ripreso? Abbiamo visto un gesto. Mi ha detto vienimi dietro, però mancavano ancora 3 chilometri, saliva troppo forte. Lui l'anno scorso aveva detto I'm gone, I'm dead quando si è staccato da Vingegaard. Pensavo, come ora lo dicono gli altri, tutti i corridori del mondo lo dicono. Giulio, ma per curiosità, gli occhiali sei riusciti a darli a tuo fratello, e quella maglia rossa di Pogacar dove l'hai messa? Dov'è? Ora la maglia rossa l'ho messa in valigia, gli occhiali li ho messi in valigia, domani ci sarà tutta la mia famiglia, quindi non vedo l'ora di darti. Sì, e poi non ho letto male, mi pare che martedì ci sarà anche una festa la sera al tuo paese, se non sbaglio, organizzata per te. Non so se te l'ho già detto. In realtà è la festa, in questo periodo è il patrono, il mio paese è in festa, ci sono le osterie. Probabilmente non l'ho mai vista perché sono sempre via in giro per le gare e non vedo l'ora domani sera di tornare a festeggiare con gli amici. Ma chi è il santo patrono? San Venanzio. Giulio, l'altro giorno ho chiesto di te a Pogacar e mi ha detto che riconosce che tu sei rispettato da tutto il gruppo e sostiene che tu diventerai uno dei grandi nei prossimi anni. Cosa ne pensi e cosa vi direte con Pogacar domani, se avrete modo? Ma non lo so, io mi fa solo che piacere, quindi sono contento così. Complimenti. Grazie. Grazie. Beh, una considerazione interessante è quella di Giulio Pellizzari, che dice che oggi è stato tranquillo. Così, a guardare la corsa non l'avrei mai detto, ma evidentemente anche la tranquillità è un concetto soggettivo. Quando Pogacar ti dice vienimi dietro e tu sei già a 400 watt e lui sale a 600, la tranquillità, diciamo, può essere relativa. Poi però l'ho visto quando si è rialzato finalmente, stremato, e ha visto una bambina sulle spalle del padre e gli ha dato una borraccia. Un gesto molto bello, no? Che dice, secondo me, tanto di come questo corridore si rivolga anche al pubblico. Perché lui stesso è ancora un bambino, in realtà, anche questo suo volto, no? Abbiamo avuto la fortuna. Era la sua compagna di banco, questa bambina a cui lui ha dato la borraccia. Veramente una tenerezza sconfinata ispira Giulio Pellizzari. Ma passiamo a un altro ragazzo molto tenero, per quanto più adulto. Di alla notizia del giorno. La notizia del giorno, che abbiamo detto, The Destroyer Michael Storer entra nella top 10 del Giro d'Italia. Prima top 10 in carriera, in un grande giro. Lui non aveva mai fatto classifica generale nei precedenti Tour e Vuelta a cui aveva preso parte, oggi ce l'ha fatta. Sentirete adesso un contributo doppio, nel senso che io ho parlato con Storer prima che lui avesse conferma del decimo posto, perché si è dovuto attendere diversi minuti che arrivasse Zana per fare i calcoli, e quindi dopo le prime domande sentirete una pausa in cui ci sono delle voci in sottofondo, non si capiscono bene, ma non è importante, c'è l'addetta stampa e altri collaboratori della Tudor che compulsivamente facevano refresh sulle classifiche, perché così poi succede, magari le persone che ci ascoltano lo sanno, coi cellulari si fa refresh sulle classifiche dei siti per vedere se qualcuno aggiorna i distacchi. A un certo punto, cercando chiaramente il sito in cui si è messi meglio in classifica. Sì, esatto. E a un certo punto è arrivata questa conferma che il ritardo di Zana era tale da farlo uscire dalla top 10 e far entrare al decimo posto Michael Storer. C'è stato un po' di festeggiamento contenuto, come nel suo stile, e allora gli ho fatto delle domande aggiuntive, perché a quel punto la festa, insomma, le celebrazioni dovevano essere aggiornate alla buona nuova del decimo posto. Michael, non sappiamo ancora il risultato finale, comunque vada, è il tuo miglior piazzamento in un grande giro, sei contento? Sì, sono contentissimo. Sì, mi sentivo bene oggi e volevo provare a stare con i migliori e quasi quasi ci sono riuscito. Pensi che in futuro la classifica generale continua a essere un tuo obiettivo o ti diverti di più ad andare a caccia di tappe, di vittorie di tappa? Mi piacciono tutte e due le cose, tutti e due gli obiettivi, però mi sono divertito a fare la classifica, è un'emozione essere davanti con i migliori. Senti, mi dici soltanto l'ultima cosa, il giro ormai è finito, qual è la prima cosa che mangi, che ti cucini a casa quando torni a casa? Mangio una pizza napoletana. Pizza napoletana con cosa? Condita sopra? Margherita. Margherita, la tua preferita? Sì, sì. Bravo, congratulazioni. Grazie. Looks like we are one zero. Okay. There's only this. Procycling starter. Yeah. That's sweet. Yeah. Oh, is it too, Micah? Yeah, I'm super happy. Yeah, yeah, 10th is a really, really good result. Yeah, I can be happy with that. Michael, sei arrivato decimo, ora è ufficiale, sì. Quindi non basta una pizza, ci vuole qualcos'altro per festeggiare. Cosa puoi aggiungere da bere? No, davvero niente, magari un tiramisù crostato. Ah, un tiramisù costoso. Lo sai cucinare tu il tiramisù, lo sai preparare? No, no, lo fa la nonna della mia ragazza. Ah, fantastico. Come puoi esprimere in italiano la tua gioia in questo momento? Una parola che ti piace, un'espressione che ti piace in italiano? Non lo so. Sei felice? Sì, sono felice. Bravo. E allora, in questa edizione di Gironimo avevamo parlato troppo poco di nonni e in questa puntata abbiamo già avuto Michele, che ci ha spiegato i suoi nomi attraverso i suoi nonni, e anche Michael Storer, che ci ha detto che mangerà il tiramisù preparato dalla nonna della sua compagna, della sua fidanzata. Quindi abbiamo parzialmente riparato le nostre cose. Comunque dai, non eravamo messi così male in quota nonni in questo Gironi. Dici che abbiamo... Meno del solito, di solito erano più protagonisti. Abbiamo avuto la nonna di Martina Alzini. È vero. Special guest, mica male. In però l'anno scorso ho avuto i nonni di Nico Denz, non so se vi questo ricordate. È vero, vabbè, diciamo che i nonni restano un tema di cui noi ci occupiamo con regolarità, mai come il tema che ha ispirato anche buona parte dell'avventura ciclistica che abbiamo condiviso in questi anni, che è quella di Bidon. E quando noi abbiamo creato Bidon abbiamo scelto questo nome riconoscendoci nella borraccia come simbolo di un ciclismo che infrange le barriere, no? Che passa di mano in mano e che viene passato anche al pubblico. E oggi abbiamo visto oggi ci ha regalato una delle scene dei suoi capolavori di questo Giro d'Italia. Anche io non me la ricordavo, molto inedita, anche inedita come uno svolgimento di questo genere, io non lo ricordo, di un passaggio di borraccia. L'ha spiegato Tadej Pogačar in conferenza stampa, ha detto semplicemente che quel bambino è stato molto fortunato, perché gli ha chiesto la borraccia esattamente nel momento in cui c'era il suo massaggiatore che gli avrebbe passato la borraccia. Quindi se non l'avete visto, ma l'avrete già visto, c'è stato questo passaggio di mano in mano dal massaggiatore a Pogačar, che immediatamente l'ha passata al bambino regalandogliela, e ha detto che prima cosa ha detto che lui non aveva bisogno di borraccia perché lui beve poco. Questa è una delle notizie, non so se a Marta può interessare per i futuri volumi del Pogačario, ma soprattutto ha detto made his day, come si dice, gli ho fatto felice la giornata, e forse la vita. E forse ho scritto anche un pezzetto della storia della sua vita, che può essere, non lo sappiamo, però sì, probabilmente sì, magari non sarà un pezzetto principale, non sappiamo la vita di questo ragazzino, ma mi piace molto il fatto che questa giornata è una giornata veramente di festa popolare, come è stata quella sul Monte Grappa, abbia anche scritto dei pezzetti delle vite delle persone che erano a bordo strada e non soltanto dei corridori. Però adesso c'è un collegamento col Giappone, scusatemi, non so se... Adesso? Entra gamba tesa adesso, entra gamba tesa il sensei, non so cosa è successo, sentiamolo. La parola del giorno. Kyono hitokoto. Borraccia. Bottle. Bottle. Cioè, ci ascolta in diretta. Mentre registriamo lui riesce a intervenire, il sensei, è incredibile. Una grandissima preparazione. Questo dobbiamo ringraziare Shimano per averci messo in contatto con questa figura che è sempre più immantinente sulle nostre vite. Speriamo che continui a esserlo anche dopo il Giro d'Italia domani. Magari vi diciamo qualcosa di più del sensei adesso, però non distraiamoci, Michele Pelacci, perché qui vediamo A, se hai ascoltato, B, se hai studiato, C, se hai letto Acqua Passata, il libro di Bidon, che si concludeva con il vocabolario, il glossario di come si dice borraccia in tutte le lingue del mondo, e c'era anche il giapponese. Allora, ho letto molti libri della mia vita. Questo non Hemingway. Non Hemingway. Anche di questo ne parliamo dopo. Non Pavese, come abbiamo già sentito in una precedente puntata di questa stagione. E nemmeno Acqua Passata. No, ma posso dirti che... Borraccia. Botol. Ma come, che è Veneto? Posso dire però che oggi per... Sposto prima la bottiglia, ti tolgo la bottiglia davanti, ora continuo. Per la prima volta... Che era un potrebbe po' dirsi nello stesso modo, tra l'altro, bottiglia. Era un po' che non capitava, ma mi hanno chiamato Toso. E c'è un'emozione comunque, no? Quando in Veneto ti chiamano Toso. Perché stai cambiando discorso? Stiamo parlando di giapponese, non di Veneto. Bottle... Dai, è giusto, no, è sbagliata, ci hai provato e ci hai provato male, vediamo, non so, mettiamola lì, ne riparliamo domani quando faremo le pagelle della tua stagione del giapponese. Ma torniamo un attimo a Pogačar, abbiamo parlato di questo suo gesto, gesto forte, molto bello, forse non memorabile quanto memorabile è stata la sua prestazione sui pedali quest'oggi e nel corso delle 3 settimane che abbiamo passato insieme a lui, perché sei stato talmente tanto insieme a lui che è stato quasi un compagno di viaggio. È vero, l'abbiamo visto praticamente tutti i giorni o quasi. Oggi, andiamo sull'azione di oggi, è partito a 36 km dall'arrivo, che sono tanti, c'era ancora molto del grappa da fare, molta discesa. Io addirittura pensavo che oggi lui avesse in programma di partire addirittura prima, sul primo passaggio al grappa, poi è stato un po' più... Cioè prima della partenza della prima tappa. Prima della partenza proprio. Della tappa, sì. Pensavo a un'impresa di quelle proporzioni. Ha fatto comunque un'impresa, insomma, importante, non ha deciso il Giro d'Italia, che era già deciso, però Michele, a te è piaciuta tanto anche. piaciuta tanto per forza, perché ha comunque dimostrato ancora una volta di essere il più forte. Quando si è avvicinato ai suoi compagni di squadra abbiamo detto ok, ora cominciamo a ballare. La cosa che a me ha colpito è anche la, come dire, sfacciataggine stamattina di portare già una bici tutta rosa. Già si considerava vincitore di questo Giro d'Italia. Oggi ulteriore spettacolo. Io quando ho fatto la mia domanda a Pogacar gli ho detto grazie per lo show, per introdurmi, e gli ho chiesto se questa cosa dei secondi, dei 10 minuti, i 4 secondi che mancavano per arrivare a 10 minuti di vantaggio sul secondo classificato, che sarebbe stato numericamente un evento importante, significativo. Perfetto, questo volevo dire, se gli interessasse o meno, e lui ha risposto no, mi è andato bene così, volevo solo nel finale dare i 5 ai bambini, salutare i tifosi sulla strada. Anche questo è bello, secondo me, cioè si è proprio goduta e si è visto, no? Sì, sì, sicuramente mi è piaciuto molto anche il commento che ha fatto Alberto sul nostro gruppo Telegram, che diceva a un certo punto sembrava che il distacco potesse essere addirittura 9,59, e lui diceva se fosse stato un corridore della Lidl sarebbe stata un'offerta marketing perfetta. È vero. E Pogacar ha parlato anche diffusamente della sua preparazione, che quest'anno è stata un po' diversa rispetto agli altri anni, del suo inverno. Ha menzionato 2 o 3 volte la parola inverno per raccontare poi questa sua primavera che è fiorita al Giro d'Italia. Ha cambiato allenamento, si è preparato di più sul corpo, no? Abbiamo detto in palestra proprio. E poi ha parlato anche della Slovenia. Qualcuno gli ha chiesto della Slovenia, come mai vengano fuori tutti questi fenomeni sportivi da questo piccolo paese, e lui ha citato 2 cose: la posizione geografica della Slovenia, che è un elemento non banale in un'analisi di questo tipo, e poi una parola che è grinta, insomma, sì, che dice, aiuta. Insomma, dice che forse la mentalità slovena è una mentalità che prevede tanta grinta. Ha parlato tantissimo anche della tifoseria sul Monte Grappa, che noi abbiamo avuto la fortuna di attraversare, abbiamo percorso un po' d'anticipo, ma già si vedeva che c'era un clima di festa mostruoso, e anche lui stesso ha detto che è stato fantastico dai piedi fino in cima, un'atmosfera incredibile. E quando anche qualcuno ha cercato di creare delle polemiche dicendo i tifosi sono comportati male, cose così, invece Tadej Pogacar ha detto di essersi trovato vicinissimo. Qualcuno è stato un po' troppo vicino, un po' troppo irruento, ma ha detto anche sono cose a cui tutto sommato bisogna essere preparati quando si affrontano salite di questo genere. E sicuramente lui è preparato a fare una cosa che fanno i grandi campioni, cioè dare gli appuntamenti e rispettarli, cioè presentarsi, fare delle promesse. Nei giorni scorsi vi abbiamo quasi svelato tramite lui come sarebbero andate le tappe successive, sono andate esattamente così, e non tutti sono in grado di mantenere quello che dicono, soprattutto nello sport. E soprattutto lui è in grado anche di rendere spettacolare un dominio che poi nei fatti, nella sostanza, è stato talmente netto da non lasciare spazio al dramma di cui dicevo prima, no? E quindi benissimo, concludo dicendo spero che la prossima volta, fra un mese o fra un mese e mezzo, qualcuno lo metta in difficoltà per fargli superare ancora di più i suoi limiti. Può essere, io spero che sia lui, che sia qualcun altro, tra un mese e mezzo o l'anno prossimo, che sia Poggi, che sia Vingo, che sia Remco, qualcuno superi quei 5 secondi che sono mancati, perché mi è rimasta un po' qua quella cosa dei 10 minuti al secondo, che è un sogno che spero si realizzi a breve. Mi ricordate qual è la figura retorica della parte per il tutto? La metonimia. Cosa vuoi dire? Che è una metonimia, il fatto che lui abbia usato questo termine. Non è intanto qua fuori ci stanno, non so, probabilmente aprendo una gru con un boh, sì. Non lo so, che non è stato, ha detto sia tappa di oggi che io espando tutto il suo Giro d'Italia uno smooth sailing. Non è stato un navigare in un calmo mare, insomma, per lui questo Giro d'Italia, nonostante il distacco forse dica altro. Certo è che i suoi rivali anche oggi sono sembrati un po' equivalersi. Sì, sono sembrati equivalersi, sono sembrati di un livello o due più basso del suo. Allora, il rumore di prima era una vettura dell'organizzazione che sta venendo caricata su un carro attrezzi, quest'ultimo bot era una delle bottiglie che ci hanno omaggiato, che evidentemente era particolarmente frizzante. E va bene, con questo suono festoso rendiamo omaggio anche ai battuti. E cominciamo dal terzo classificato in questo Giro d'Italia, che abbiamo detto prima, ha compiuto 38 anni oggi, Geraint Thomas, ho rubato... Il giovane Thomas, comunque. Il giovane Geraint Thomas, ho rubato qualche secondo di un'intervista che stava rilasciando ad altri colleghi, però mi sembrava carino, interessante proporvelo, perché parla proprio di Pogacar, quindi è Thomas che fa una considerazione sul suo rivale, dominatore di questo giro. Oh, for me it's he's the best I've raced with, I think. And I've raced with a lot of good guys. Just he's so versatile and aggressive and all year round as well. It's not just well, like me, for a couple of months a year where you're good. It's insane how talented he is. E allora Thomas ha detto che secondo lui Pogacar è il più forte avversario con cui, contro cui abbia mai corso, anche se poi ha specificato, certo non ho corso contro tantissima gente brava, forte, perché Pogacar è un talento estremamente versatile, aggressivo tutto l'anno, e poi ha detto non come me che sono buono solo due mesi all'anno, e ha detto, ha concluso dicendo, è pazzesco quanto sia talentuoso Tadej Pogacar. Ha detto pazzesco, proprio come Pelacciano. Sì, ormai quasi. Si è convertito anche il buon G. E d'altronde è giovane come Pelacci e quindi anche lui usa parole da giovani, parole che peraltro già c'erano nel vocabolario italiano. Non stiamo qui a dilungarci su queste cose, parliamo ancora un secondo degli uomini di classifica. Rendiamo omaggio a Dani Martinez, l'abbiamo visto forse un po' poco in questo Giro d'Italia, forse non è che l'abbiamo visto poco, è che siamo stati talmente abbagliati dalla grandezza di Pogacar che... In effetti abbiamo visto poco in generale gli uomini di classifica, ci siamo molto concentrati sulle imprese continue, su questo effetto magnetico che ha Pogacar quando si presenta alle corse, che tutto ruota intorno a lui, ma va reso omaggio anche ad altri corridori che hanno sofferto molto a stare dietro a un campione di questo tipo. In Dani Martinez alla puntata zero, quando abbiamo presentato il Giro, ci credevamo poco, è stato molto bravo a smentirci. Non aveva mai corso un grande giro a questo livello da capitano. Cioè l'anno con Bernal, però appunto... Però faceva il gregario, no? Esattamente, come sempre poi l'ultimo uomo degli uomini di classifica talmente dominanti finisce per arrivare in alto in classifica anche lui. E la cosa che ho notato di Martinez è che, oltre ad aver così, insomma, averci fatto ricredere sulle sue prestazioni, ha ravvivato un sacco anche il tifo colombiano. E ci voleva, perché i colombiani sappiamo che sono super appassionati e sono sempre molto presenti sulle strade del Giro d'Italia. Oggi per Martinez c'era veramente un po' di torsida. Io sono stato all'arrivo lì vicino, tra lui e Iner Rubio, anche Nairo è passato, e ho rivisto un po' di quella passione colombiana che forse non vedevamo dal Giro di Bernal. È vero. Ed è sempre una gioia, anche perché è sempre bello vedere come questi corridori, che non sempre sono di grandi parole, anzi raramente, però sono sempre molto attenti ai loro tifosi, ai tifosi della loro terra. Anche quest'oggi li ho visti tutti fermarsi a salutare. C'era questo libro, il Condor, non mi ricordo cosa, un libro con più copie che circolava. Allora, te lo dico perché me l'ero segnato. Okay. L'ho visto tra le mani di Michela, che è la moglie o compagna, non lo so, non so di preciso, di Einer Rubio. Ok. Einer Rubio che è arrivato settimo in classifica generale. Il titolo di questo libro è El Poder Ganador. El Poder Ganador. Ce n'erano più copie che giravano tanti corridori, Martinez compreso, lo autografavano e lo donavano ai tifosi colombiani. Non so, ci documenteremo su questo libro. Sì, ci faremo probabilmente un podcast. Michele, invece, prima di lavorare a questo nuovo podcast, qualcosa sul quarto e il quinto. Ben O'Connor della Decathlon e poi Antonio Tiberi della Bahrain, dobbiamo dire molto brillante in queste ultime settimane del Giro. Non era scontato che fosse così, primo esordiente anche lui. Hanno chiuso in modo molto differente Ben O'Connor e Tiberi, perché Ben O'Connor è stato quasi aiutato da Valentin Parepentre, che ha finito secondo oggi. Grandissimo Valentino, io lo pronosticavo sul podio addirittura del Giro d'Italia, non ha fatto classifica, ha aiutato il suo capitano, che rimane un po' un animale misterioso per le corse a tappe. Invece, veramente stupefacente, Antonio Tiberi, perché al primo Giro d'Italia, anche oggi, è sembrato, diciamo tra gli esseri umani, quello migliore. Davanti al gruppetto di Rubio e Dani Martinez, sul secondo grappa, quando Pogacar era attaccato, c'era lui. Dimostra che ne aveva, dimostra che voleva vincere la maglia bianca, l'ha vinta tranquillamente, perché Arensman oggi è un po' rimbalzato. Commosso all'arrivo, abbraccia con la madre, io sono un grandissimo fan di Tiberi, secondo me ci toglierà soddisfazioni, sa anche andare in discesa. Toglierà nel senso che ci priverà di soddisfazioni. Scusa. Ci darà soddisfazioni. Hai capito? Vabbè, certo. Oggi sono buono, siamo all'ultimo giorno di scuola o quasi. La quarta bottiglia di vino che forse anche influisce. No, su Tiberi io ho avuto attaccato anche in discesa a un certo punto, brevemente. Lì mi ha dato proprio delle Nibali vibes, come dicono i giovani. Mi ha fatto proprio pensare a Vincenzo Nibali. Nibalibes, si sintetizza, i giovani sintetizzano tutto, no? Peraltro Nibali, ultimo grande scalatore italiano, la cui prima vittoria al Giro d'Italia avvenne Grazie al Monte Grappa, bene, il Monte Grappa. Ringraziamo il Monte Grappa per tutto l'aiuto che dà a noi e ai ciclisti di ogni giorno. Oggi ha dato un aiutino anche a costruire un pezzo di carriera a vita dei Pogacar. Sì, e non lo sappiamo perché ci è appena arrivato fresco questo contributo da Genova. Lo ascoltiamo insieme, Marta Bacigalupo con il suo Pogaciario. Io mi chiamo Marta Bacigalupo, non faccio la giornalista da molti anni e nella mia carriera mi sono occupata di molte storie come questa, ma soprattutto di Tadej Pogacar. E questa è la nuova puntata di del Pogaciario. Ragazzi, in queste 20 tappe abbiamo parlato del suo comportamento, del suo carattere, del suo approccio, di mille curiosità, ma forse oggi non è più il momento di cercare lo scoop, ma di fare un discorso un pochino più profondo. Il ragazzo in rosa che abbiamo visto dare spettacolo giorno dopo giorno, di cui ogni persona, ogni fonte con cui mi sono confrontata, ogni insight che ho cercato, ogni risposta che ho trovato è sempre stata solo stupore, ammirazione, diciamo dichiarazione di trasparenza. Tadej è esattamente come lo vedete, è un ragazzo molto umile, quindi io credo che forse gli unici a cui Tadej si sente davvero di dovere qualcosa siano soprattutto i suoi fan, e soprattutto quelli più giovani. In queste 20 tappe abbiamo visto bambini piangere, commossi ed emozionati dai suoi gesti di generosità, abbiamo visto Tadej darsi moltissimo e per questo e per la quantità di bandiere slovene che oggi c'erano sul Grappa vorrei raccontarvi ancora qualcosa del suo contesto, quindi di da dove arriva e appunto qualche stralcio della mia chiacchierata con il giornalista sloveno David Zrmeli, e chissà se l'ho detto giusto. Diciamo che nella mia chiacchierata ho chiesto a David quale sia stato l'impulso che i grandi campioni sloveni hanno dato allo sport e mi ha risposto lui, ma come mi ha anche, risposto oggi Tadej in conferenza stampa. David mi ha detto che non solo Tadej ma anche Roglic, Tratnik, Mohoric hanno una popolarità che ormai va oltre il ciclismo, e anche Tadej ne ha parlato oggi, ha detto che non sono solo i 6 ciclisti più importanti al top oltre a lui ma anche molti altri sportivi in molte altre discipline. E quello che appunto mi ha raccontato David, ma che avevo già capito, è che sia Tadej che gli altri campioni usano questa loro popolarità per continuare a dare un contributo senza dimenticare le loro origini, il loro stato di partenza. Quindi, parlando del Poggi's Team, ma anche di molte altre iniziative e operazioni simili, ecco che cosa ci ha raccontato David. È che puoi andare al club di Tadej, di Poggi Team, e così puoi parlare là con i ragazzi, con quelli che hanno lavorato con lui. È una bella squadra, vero? Una squadra con tanti giovani adesso, davvero tanti. E poi c'è anche quella Continental Team, mm-hmm, che aspetta gli altri giovani, diciamo così. Bello questo che lo ha fatto da subito. Sì, sai, anche Mattei e Tadej, loro anche Primoz, loro continuano a sopportare, sai, il ciclismo sloveno. Loro sanno da dove arrivano e cosa hanno fatto gli altri per loro. E così, sai, anche Mattei fa tanto per anche per la nazionale e anche per la sua squadra che era quando ha iniziato. Anche Taddei per il Poggi Team, così è. Grazie ai laboratori tecnologici della Fufas Corp, oggi hai la possibilità di ricevere a casa tua una nuova tecnologia all'avanguardia. Un assistente virtuale di ultima generazione, in grado di rispondere alle tue più profonde esigenze. I nostri scienziati hanno creato Giri. Ehi Giri, chi ha inventato il Giro d'Italia? Lallallero. Lallallero? Ma cosa vuol dire? Lallallero vuol dire lallallero. Sì, vabbè, ma chi ha inventato il Giro d'Italia? Lallallero. Ma cosa c'entra? Lo sai o non lo sai? Lallallero, lallero. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Con Giri finalmente non avrai a disposizione più informazioni. Con Giri non avrai risposte alle tue domande. Ma con Giri ti sentirai più intelligente. Più intelligente di lui, di Giri. Giri, quanto dura il ciclo breve della lavatrice? Mia nonna lavava i panni al fiume. Sì, ma ti ho chiesto quanto dura il ciclo più breve della lavatrice. Qua non ci sono fiumi vicini. Non mi interessa, sai rispondere o no? Potrei dirti sì o no, dipende dalla domanda. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Giri, benvenuti nel futuro. Benvenuti nella stupidità artificiale. E vabbè, quindi quota nonni del podcast che si impenna ulteriormente. Cioè, Giri aveva una nonna. Come evidentemente, cioè, lavava i panni al fiume. Come funzionano gli alberi genealogici delle intelligenze artificiali? Delle stupidità artificiali. Cos'era? Era una macchina da scrivere la nonna di Giri. Non ho idea. Vabbè, non potremo chiederlo a Giri sicuramente. Magari possiamo chiederlo a un professore, a un dottore, alla nostra guida, a una guida questa mattina o questo pomeriggio, quando prima di arrivare nel centro di Bassano del Grappa ci siamo fermati lungo il fiume Brenta perché volevamo visitare il Museo Hemingway e della Grande Guerra, che ha sede proprio a Bassano. Abbiamo incontrato Gian Domenico Cortese del Museo Hemingway. Vi facciamo ascoltare l'incontro che abbiamo avuto con lui, inframmezzato, insomma, insieme a qualche suono d'amore che abbiamo captato nella nostra ascesa al Monte Grappa. Davanti abbiamo Lorenzo Germani e Davide Ballerini. Noi siamo sulla riva del Brenta e ci ha accolto con grande cortesia il signor Gian Domenico Cortese, il curatore scientifico del Museo Hemingway e della Grande Guerra. Siamo a Cae Rizzo Lucca, una grande villa costruita a partire dal 1400, dove Hemingway venne giovane diciottenne volontario della Croce Rossa americana a svolgere un servizio con la, appunto, prima sezione della Croce Rossa americana. Quanto tempo ha trascorso Hemingway in questa struttura? Si può quantificare? Allora, Hemingway è arrivato nella primavera del 1918 direttamente dagli Stati Uniti, proprio in questa zona del Piedemonte Veneto, e qui è rimasto fino alla vigilia del suo trasferimento sulle rive del Piave, dal Brenta al Piave, perché aveva un grande desiderio, diciottenne, un grande desiderio di conoscere, di vivere la vita, ma anche di incontrare la morte. E qui era un po' distante dal fronte più immediato, che raggiungeva con le ambulanze della Croce Rossa, che raggiungeva con le moto sidecar. Non ha raggiunto il fronte con la bicicletta, perché inerpicarsi sulle nostre montagne era impegnativo, ma a Fossalta di Piave andava, in attesa dei combattimenti, a portare in bicicletta proprio sollievo ai militari, ai soldati, a quanti stavano attendendo i combattimenti. E proprio scendendo da una bicicletta affrontando un combattimento, è stato gravemente ferito. Qui ha vissuto assieme ad altri giovani americani, alcuni poi definiti i poeti di Harvard, perché erano qui volontari loro stessi, a partire da John Dos Passos, a partire da Vellara, tanti altri grandi scrittori e poeti che successivamente hanno espresso le loro caratteristiche artistiche diventando dei personaggi famosi. Poi qui è ritornato. Telefono. Sarà Hemingway? Qui in Veneto è tornato poi nel 1922, nel 23, apprezzando ancora il ciclismo, ma il ciclismo l'ha incontrato, guarda caso, nel 1949, quando stava salendo sulle Dolomiti e ha incrociato una tappa del Giro d'Italia ed è stata bloccata la sua auto per far passare i corridori in una straordinaria tappa di montagna. Partiva da Bassano del Grappa, era il giugno del 1949, per arrivare a Bolzano. E anche questo incontro con la bicicletta gli aveva fatto dire: voglio scrivere un romanzo sulla bicicletta, un romanzo che lui non ha avrebbe mai scritto, ma della bicicletta ha parlato per esempio in Festa Mobile, quando lui ha incontrato i ciclisti nel velodromo d'inverno di Parigi, dove era rientrato con la prima moglie, e raccontando appunto questo suo interesse per la bicicletta, perché dice la bicicletta a partire dal velodromo ti continua a portare nelle parti più alte del velodromo e quindi a faticare per le salite e poi a scendere velocemente per buttarti nell'agone. Era un po' il suo stile di vita, no? Lui affrontava tutte le fatiche, tutte le avventure con questo grande entusiasmo. Poi di più, che cosa ha scritto? E questo lo abbiamo trovato nei suoi racconti, che andare in bicicletta, imparare a conoscere i contorni dei paesi e davvero entrare nell'armonia, entrare nella conoscenza non solo geografica di questi luoghi. Correndo, scorrendo i percorsi con l'auto, sfuggono tutti questi particolari, perché lui continua a dire, continuava a scrivere: io sono un ragazzo del Grappa, un ragazzo del Pasubio e del Piave, io vorrei essere sepolto qui, perché questa è la terra che mi ha dato tante conoscenze, tante gioie della vita. E poi dove è stato sepolto in realtà? Lui, nel giorno in cui si è suicidato negli Stati Uniti, è stato sepolto nell'Ohio, è morto proprio il giorno in cui in Francia, alla Tour de France, stava vincendo un grande atleta, un po' come chi ha oggi la maglia rosa nel nostro Giro d'Italia, che stava interpretando proprio verso il traguardo di Liegi quelle che erano tutte le caratteristiche che un protagonista del romanzo sulla bicicletta di Hemingway avrebbe avuto: l'energia, la carica, l'entusiasmo, la forza, la gioventù esemplare, no? Nel dedicarsi anche a queste discipline così impegnative. Devo cercare. Devo cercare, cercare una risposta. Sì, sì. Dopo le dico, si chiamava Jean e non mi ricordo più. Allora, se siete d'accordo, visto che tra un po' entra nelle fasi decisive la tappa del Giro, che poi arriverà a Bassano tra un po', concluderei, mi dica se è d'accordo, leggendo questo passo da Addio alle armi. Che vabbè, siamo d'accordo. Lega. Lo leggo io o lo legge lei? Lega. Lo leggo io. Sì. Allora, forse la guerra sarebbe finita, disse Aimo. Camminavamo per la strada più in fretta che potevamo. Il sole cercava di spuntare. Lungo la strada vi erano siepi di more. Attraverso le siepi vedevo i nostri due grossi furgoni piantati nel fango. Anche Piani si voltò a guardare. Dovranno costruire una strada per portarli via, disse. Per Cristo, se avessimo la bicicletta, disse Bonello. C'è l'uso della bicicletta in America? Disse Aimo. Una volta c'era. Qui è una gran cosa, disse Aimo. Una bicicletta è una cosa splendida. Bellissimo. Jean Forestier era il ciclista francese. Ok. che il 2 luglio, il giorno in cui proprio si è suicidato, Hemingway sta vincendo una tappa decisiva del tour. E chiaramente ricordiamo invece l'Aimo citato, è un personaggio di Addio alle Armi che però prende il nome da Bartolomeo Aimo, grande corridore degli anni 20-30, sul decennio vado un po' male. E allora andiamo a vedere la tappa. Sì. Tu anche vai a vedere la tappa? Sì, sì, volentieri. Allora, volentieri. Qualcuno nello specifico? No, io sono innamorato dei nostri giovani campioni. Mi è piaciuto Pellizzari, ma non posso non apprezzare il gesto che ha fatto l'attuale leader della classifica il giorno in cui non ha lasciato al più giovane concorrente del Giro arrivare al traguardo per primo, ma gli ha dato il berretto, gli occhiali, i guanti e la maglia rosa. Io devo sempre abbassare il livello, ma se fosse un corridore di questo Giro d'Italia, Hemingway chi sarebbe? Ma forse uno che guarderebbe più il territorio che pensare al risultato finale, perché lui era un avventuriero, ma voleva godere la vita, non voleva faticare proprio così tanto. Sarebbe un velocista, lo troveremmo nelle posizioni basse della classifica generale. Sicuramente, però... O sarebbe uno che va a fare un podcast sul Giro d'Italia, forse, anziché un corridore. Dovrebbe essere intervistato, senz'altro. Tutto al vento, tutto al vento! Stai offrendo una birra? Grande! Storico comunque, la fila di birre. Dai, dai, via, via, via, via! Sì! Non vediamo più niente che si fa, Il bello del Giro d'Italia, Michele Pelacci, è che ci fa scoprire anche, ci permette di entrare in contatto anche con grandi figure della letteratura, anche che tu non hai mai letto, e potrebbe essere uno stimolo. E insomma, la strada, noi seguiamo le biciclette, ma poi seguendo le biciclette ci imbattiamo in figure gigantesche della storia che a loro volta hanno seguito le biciclette, per cui tutto sommato non ci sentiamo neanche troppo soli. Ho imparato molte cose in questo Giro d'Italia, tra cui 3 libri di Hemingway. Allora, vado a memoria. Hai imparato 3 libri? Sì, cioè il titolo. Non di più. Dai. Allora, Il vecchio e il mare. Sì. Per chi suona che la campana. Che quello su Pozzo Vivo. E chi era quello che mangiava il salmone a Riccione? Non mi ricordo già più. Forse Zaroncello. Tarozzi? Covili? Covili. Per chi suona la campana. Per chi suona Campenarz. Sì. E... non ci posso vabbè, due ne Addio alle armi. Addio alle armi. Addio alle armi. Andiamo. Ottimo titolo per concludere il Giro d'Italia. E noi però andiamo all'incontro del mattino che anche oggi abbiamo fatto. Ma ti lascio, Leo. Io mi siedo sul paracarro. Io sto qui e aspetto Barta. Sì, esatto. Perché abbiamo incontrato, rimanendo in tema di americani, da Hemingway passiamo a Barta. William Barta, detto Will, da Boise, nell'Idaho, corridore della Movistar, Chronoman. Scusa, che gancio è, rimanendo in tema di americani? Cioè. Sono due corridori americani. No, due. Uno è un corridore americano. Hemingway è andato in bicicletta senza essere un corridore, è stato uno scrittore. Ragazzo del 1996, Barta, 28 anni. Questa è la prima parte della chiacchierata con lui. Will Barta, how are you? I'm good, how are you? Very good, thank you. First thing, I don't know if you know that your name and surname, yeah, the anagram is almost exactly Bartali, the great Italian. Did you know that? Obviously I know that most of the first letters are the same, but yeah, I've never really thought about it too much. It's your third Giro in a row. Yeah. What's the favorite thing you have learned about Italy in these 3 years? Oh, I mean, I think the biggest thing is just that you feel the love of cycling here every time, everywhere you go. There's nowhere, even on the flat roads, when you think it's a boring stage, everybody comes out and watches, and it's just nice to feel that enthusiasm from everybody. This is a very important season for you because you had your first pro win. How a win like that changed you mentally? Do you think you are different now? Yeah, I think so. I mean, of course, you always, you're a bike racer because you want to win bike races, so... I think sometimes for me it took many years to actually win a pro race, so I think sometimes you start to lose the faith that it will happen, and I think once you win one, you feel like you can keep doing it, and often I'm a support rider, and So that day I kind of took my chance, and I think also sometimes, you know, for the team to see that and see that you have the mindset to go for wins also changes your role within the team a bit. Dunque, Will, come stai? Gli ho chiesto e lui ha risposto: sto bene, grazie. E tu? E io gli ho detto: anch'io sto bene, grazie. Per prima cosa, gli ho detto io, sapevi che le tue generalità anagrammate danno quasi esattamente il nome del grande Bartali, perché com'è l'anagramma esatta? Ce l'ha segnalato Gino Cervi, chiaramente, chi altro poteva segnalarci un anagramma entusiasta nel verificare che potrebbe essere viva, ovvero W, apostrofo L, per dire il Bartali. Bartali. Quindi Will Barta diventa questa cosa qui. Lui ha detto sì, diciamo che ero consapevole che le prime lettere del mio cognome fossero in comune con quelle di Bartali, però non ci ho mai pensato troppo. Lo conosce ovviamente Bartali come uno dei più grandi della storia del ciclismo. Gli ho chiesto successivamente: è il tuo terzo Giro d'Italia consecutivo, qual è la cosa migliore che hai imparato sull'Italia in questi anni? E Bart ha risposto: la cosa più importante credo sia che voi sentite davvero molto il ciclismo qui, ovunque vai. Anche nelle tappe pianeggianti e noiose la gente esce e va a vedere la corsa, ed è bello sentire questo entusiasmo da parte di tutti. Domanda successiva: per te è una stagione importante in quanto hai ottenuto la tua prima vittoria da professionista alla Volta alla Comunitat Valenciana. Ti ha cambiato psicologicamente quella vittoria? Pensi di essere diverso dopo aver vinto? E lui ha risposto: sì, se sei ciclista nella vita è perché vuoi vincere delle gare di ciclismo. A me sono serviti molti anni, sei nello specifico, per ottenere una vittoria. A volte perdi quasi la speranza, poi quando succede una volta pensi che puoi continuare a farlo. E io di base sono un gregario, quel giorno però ho avuto un'opportunità e l'ho colta. Questo significa che la squadra, la mia squadra, da quel giorno sa che io ho le caratteristiche mentali per poter vincere delle gare. E questo un pochino cambia anche la tua posizione e il tuo ruolo all'interno della squadra. How does a young kid from Boise, Idaho, becomes a cyclist? We were super lucky. Because also Matteo Jorgensen is from the same town, and we were super lucky. We had a really, really big cycling club. Because, as you know, cycling, in the U.S. is not so big, and especially where we're from, it's not so big. So we were just really lucky to have a big cycling club with some people that led it that were really enthusiastic and helped us to take every step we could to become pro. But you did a different sport before, right? Like cross-country skiing? Yeah, I did cross-country skiing and baseball when I was younger. Baseball. Yeah, exactly. Secondo blocco gli ho chiesto come succede che un ragazzino di Boise nell'Idaho diventi un ciclista professionista. E Bart ha risposto: sono stato fortunato. Anche Matteo Jorgensen viene dalla mia stessa città e siamo stati entrambi fortunati perché c'è un club di ciclismo molto attivo da noi. Come sapete, il ciclismo negli Stati Uniti non è uno sport importante, primario, specialmente in uno stato come l'Idaho, quindi è fondamentale l'entusiasmo delle persone di questo club di ciclismo. È stata la nostra fortuna. E gli ho chiesto: è vero che prima però hai fatto un altro sport, lo sci di fondo nello specifico? E lui ha risposto: sì, è vero, e da ragazzo ho giocato anche un po' a baseball. Why people don't completely understand cycling in the US? Yeah, that's a good question. I mean, I think people, they don't understand in cycling, the big thing is that there's a team. So people like team sports in the US because they like the idea of unity and team, but they don't understand that cycling is a team sport, really. I think that's part of it. I think, also, it feels quite far away because, you know, all of it is in Europe. You see with football, soccer, that now Americans, they watch a lot of Premier League and things like this. And I think also now when you had things like GCN, a lot more Americans got into cycling because you could actually see the races. And this is a big problem in the US, is you just can't see the races. Could it also be that, you know, in team sports you can win, you can lose, you can tie, while in cycling there are so many nuances, you know, you can do something which is not a win or a lose or a tie. No, that's for sure. I mean, if you play football or something like this, it's you either win or you lose. And when you're a cyclist, you lose, I don't know, even if maybe not today, but most people you lose 95 at least. Even if you're a super good cyclist, you lose 95% of the time. So I think it's not so clear, and you have all these things, you know, KOM, all this type of stuff that, you know, it's just different than maybe the American mindset. Like for me, always growing up, I have to say I never really understood KOM going for this because it was like you go for the win or you don't. So it's something that now I can appreciate for sure, but it's definitely maybe not the mindset we have. Dunque, parlando di sport americani, gli ho chiesto: perché secondo te le persone negli Stati Uniti non comprendono del tutto il ciclismo? Parta ha risposto: bella domanda, ci ha pensato un po' e poi mi ha detto: secondo me gli americani non capiscono che nel ciclismo una delle cose più importanti è che esistono le squadre. Alla gente da me piacciono gli sport di squadra perché amano quest'idea dell'unità nelle squadre e non credono forse che anche il ciclismo è uno sport di squadra. Questa può essere sicuramente una spiegazione. Poi c'è il fatto che sembra qualcosa che avviene molto lontano da noi, perché le corse importanti sono in Europa. Un po' quello che succedeva col calcio in passato, mentre adesso invece tutti guardano per esempio la Premier League inglese. Col ciclismo ancora non è così, anche se ci sono canali come GCN che trasmettono le gare. Un grosso problema in America è che tanti semplicemente non hanno la possibilità di vedere proprio le gare di ciclismo. Io gli ho chiesto: può anche centrare il fatto che negli sport di squadra di base uno può vincere o perdere, al massimo pareggiare, mentre nel ciclismo ci sono più sfumature diverse e non così facili da capire? E Barta mi ha confermato che è così. Per esempio nel football, ha detto lui, vinci o perdi e basta. Nel ciclismo, se non sei Tadei, ha detto Barta, perdi nel 95% dei casi, anche se sei un ottimo corridore. Non è così chiaro da capire, ci sono tutte queste cose come per esempio i Gran Premi della montagna, la classifica degli scalatori. È proprio diverso dal modo di pensare americano. Per esempio, io stesso da ragazzo non capivo questa cosa dei Gran Premi della montagna, dei ciclisti che lottano per quella classifica. Cioè, stai lottando per vincere qualcosa o no? Mi chiedevo, ha detto Barta. Che tipo di vittoria è quella? Adesso questo lo capisco e lo apprezzo. Ma questo ragionamento non appartiene esattamente alla nostra mentalità. Last thing, one thing from Idaho that we should know apart from potatoes, of course. One thing that you should know is, well, we're from in Boise, which is also kind of funny being in a Spanish team and you have also a lot of Basque people. We have a really large Basque population. I think they say it's one of the biggest Basque populations outside of the Basque country, which is kind of a surprising fact, yeah. Do you miss Matteo in the team? Yeah, I mean, of course, he's one of my best friends from when I was 10, so of course you miss getting to spend time with someone like that. Grazie mille. Thank you. Ciao. Ultima cosa, gli ho chiesto, mi dici un aspetto dello stato dell'Idaho che dobbiamo conoscere, a parte le patate, ovviamente, visto che è lo stato conosciuto in America per la produzione di patate, ha sorriso. Quindi Vance in Martin's Deck potrebbe andare a correre in Idaho. Sì, perché qual era il collegamento con lui? Diceva che il segreto del suo paese sono le patate, per quello che vanno così forte in bicicletta. Ok, è vero. E invece Barta si è messo a ridere su questa domanda, poi però ha detto una cosa da sapere sull'Idaho, anzi su Boise nello specifico, la sua città, e che è anche divertente per me che corro in una squadra spagnola, è che a Boise c'è un'enorme comunità di baschi, credo una delle più grandi al di fuori dei Paesi Baschi. A me sembra una curiosità davvero sorprendente, mi ha detto Barta. E infine gli ho chiesto, ti manca un compagno come Matteo Jorgensen in squadra, parlando appunto di Boise? E Barta ha risposto, certo, è uno dei miei migliori amici da quando avevo 10 anni. Quindi sì, mi manca passare del tempo con uno come lui, di tanto in tanto. Ci siamo salutati, ricordiamo Jorgensen è passato quest'anno alla Visma Lease a Bike. Anche a Bakersfield in California c'è un'enorme comunità di baschi, non so se vogliamo avvisare Barta e vuol fare questo così, gemellaggio. Ma sai Filippo qual è il motto dello stato dell'Idaho? Dimmi un po'. Esto perpetua, ovvero lascia che sia perpetuo, come una classifica. Come tutte le classifiche, no, non è vero, le classifiche domani si concludono tutte, nessuna sarà perpetua, perpetua è la nostra vita, nemmeno, perché un giorno finirà anche quella. E dopo aver approfondito il Private Idaho di Barta, c'è una cosa nella sua intervista che mi ha colpito ed è il suo discorso sul vincere, come il Gran Premio della Montagna, come tante altre classifiche che sono difficili da comprendere. Due classifiche in questo Giro d'Italia sono ancora molto molto aperte, una quella per la maglia rosa, perché stiamo domani tutti tranquillamente Einer Rubio potrebbe partire sui fori imperiali e dare un sventolando il libro e il poder ganador sventolando il libro e andando a conquistare questo meritato Giro d'Italia, ma l'altra è la classifica a cui tutti noi più teniamo, insieme a quella dei campanili più alti del paese, e chiaramente è l'Intergiro. Noi siamo venuti qua per seguire specificatamente questa classifica che fin qui sta venendo dominata con fare quasi pogacciariano da Filippo Fiorelli, ma è ancora aperta. Per cui oggi all'arrivo, visto che ci interessa molto questo tema, ho aspettato anche un pochino, devo dire, però ho aspettato che arrivasse Filippo Fiorelli e gli ho chiesto se poteva già sentirsi così di festeggiare questa vittoria dopo aver portato a termine anche questa tappa in testa alla classifica. Che se domani la Filippo si sveglia con la voglia di fare l'intergiro mi frega, perché è 11 punti di differenza, quindi il vincitore è 12 punti. Quindi domani marcatura uomo? Non spero, si può dire. Spero di no, spero che non si svegli con quell'intenzione lì. Ma però... era un obiettivo di questo Giro d'Italia o una cosa che è venuta fuori tappa dopo tappa? No, onestamente no, però dopo, diciamo dopo la seconda settimana, che comunque si andava in fuga per l'obiettivo di tappa e dopo giustamente c'era questa opportunità qui, l'abbiamo sfruttata. Sono dei premi e delle classifiche che comunque valorizzano voi fuggitivi, insomma hanno un valore forte ancora nel ciclismo queste classifiche. Ma fino a qualche anno fa questa qui dell'Intergiro assegnava anche una maglia, adesso è il primo anno dopo diversi anni che la fanno, quindi sicuramente qualcosa di buono c'è, a parte a livello economico per noi, diciamo, non buttiamolo per via, no, assolutamente. Ma tu hai dei ricordi della maglia azzurra dell'Intergiro o eri troppo piccolo? No, assolutamente, non me lo ricordo, forse non guardavo neanche il ciclismo. Senti, questo giro comunque è arrivato in fondo, siamo contenti? Sì, dai, forse è mancato qualche bel piazzamento, però a inizio giro ho indossato la maglia ciclamino, che comunque sia un'opportunità bellissima da indossare per me, anche per la squadra, per i miei tifosi, quindi diciamo che non mi posso lamentare. Grazie mille Filippo, in bocca al lupo per domani. Grazie mille. Ciao. Pozzo di Scienza Parmense, come va l'Intergiro domani? Dov'è collocato e chi si aggiudicherà? Non sei pronto, non sei preparato. Vabbè, parlami in generale della tappa di domani, sorvoliamo sull'Intergiro, che tanto quello lo sanno già tutti. Ma più che altro stavo contando i passaggi a Fori Imperiali, perché l'Intergiro è posto lì al chilometro 88.4, a naso al quinto passaggio, però ok. Lo scopriranno domani i corridori, a naso. Esatto, domani niente di che in realtà, la tappa è piattissima, l'abbiamo vista l'anno scorso, citiamo solo due toponimi, perché sono abbastanza incredibili, anzi tre, e insistono sulla strada verso Ostia, Casal Palocco e Infernetto, notevoli, c'è anche... Pensa che sono stato in entrambi, ti sorprenderò. Non voglio sapere perché. No, non aggiungo altro. C'è anche, segnalano Certune Cartine, il passo dello Zodiaco. Che però non è una salita. Oh, vabbè, assurdo. Se è un passo. No, non è una salita, strano. Vabbè. A Roma ci sono i colli, eh? Vero. Sai quanti sono? 7, giusto? E il re di Roma? 7 pure loro. Bravo. Ma sai che... Boris Johnson che non si ricordava i colli. Vabbè, andiamo avanti. Che gli frega, devo sapere i colli di Londra. I colli di Londra non so quanti siano. Non so neanche se ci sono. Ci sono delle salite anche a Londra, comunque. Ah. Non so, andiamo avanti o... Torniamo sulla tappa di domani, sì. No, se vuoi andiamo avanti così all'infinito. Facciamo perdere il treno a Leonardo, vai pure. Infine, Kautz, ci sarà un circuito sui Fori Imperiali. Insomma, domani... Fori, Fori. Non fuori imperiali. Come la bottle del giapponese. Insomma, domani a Roma sarà volata. Chi vince? Beh, che domande. Domani è il giorno. Cioè, la persona che più ha... governato e influito nella città di Roma, con anche trame, misteri da inquietudini rosa, potrebbero essere state le inquietudini bianche, era un polacco, e quindi per continuità domani è il giorno dell'angelo di Varsavia, Stanislav Anielkowski. È un buon nome, perché le ultime tappe in volata ai grandi giri si prestano poi alle sorprese, in particolare al Tour de France, dove siamo più abituati a vedere l'exploit di un corridore inatteso, di un velocista inatteso l'ultimo giorno. Al Giro ancora non c'è questa tradizione, però io vorrei che si inaugurasse, e faccio un nome curioso, che è quello di Mads Mikkels. Faccio un nome curioso anch'io, come tutti alludevi magari a Jordi Meus, che ha visto l'ultima volata sui Campi Elisi, ha vinto anche oggi in Norvegia, Meus. Io ti faccio una chiamata. Se riesce a vincere anche domani a Roma, fa un numerazzo incredibile. Sì, peccato che non ci sia questo Giro d'Italia. Che ne sai, magari prende il treno. Io vorrei citare il terz'ultimo in classifica generale, perché con la maglia nera ci vedremo domani, ma Tobias Lund Andresen è un bel velocistino della DSM, secondo me vince lui domani. Bella telefonata Michele Pelacci. Leonardo Piccione si è già alzato in piedi perché, diciamolo, non faremo in tempo a registrare un ulteriore audio alla stazione. No, non faremo in tempo a registrare un ulteriore audio perché sto per perdere il treno che mi porterà a Roma, quindi domani cercherò di contribuire alla puntata, l'ultima puntata di Gironimo, con voci colte all'arrivo o in sala stampa, vedremo. Però lasciatemi perdere i pezzi sto podcast comunque. In una settimana, uno dopo l'altro. Vediamo se ce la facciamo domani arrivare in due a non so dove. Comunque strano, Kautz. La gente che ci frequenta scappa, strano. Sì, non so perché hai usato il plurale, ma perché comunque ci piace la fuga. Effettivamente ci sono anch'io. Allora, lasciamo andare Leonardo in fuga, lasciamo andare in fuga anche tutti voi a seguire i nostri social, a leggere le newsletter, a leggere i gruppi Telegram, ringraziando nuovamente Alvento e Shimano che ci hanno mandato qui per tutte queste tre settimane. Domani ci sentiamo per salutarci con un po' più di calma. Nel frattempo, sigla e a domani. Ciao!